9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno carissimi ascoltatori, buongiorno, e anche in questo venerdì, dopo la trasmissione che 2 giorni fa abbiamo dedicato alle tasse, abbiamo deciso di tornare sopra l'argomento. Perché abbiamo deciso di tornare sopra l'argomento? Perché, come vedete dai giornali di oggi, innanzitutto c'è una nuova conferma del fatto che non è il vostro gattone Giannino un pazzo che su questo argomento va contro tendenza, perché c'è un nuovo report internazionale elaborato da Pricewaterhouse per una grande istituzione internazionale, e naturalmente noi finiamo al 167esimo posto al mondo per la pressione fiscale totale che grava sulle nostre imprese, e approfondiremo meglio tra poco perché siamo così in fondo alla classifica. Però ricordiamocelo che siamo alla fine del mondo per le imposte reali che gravano sul nostro paese. Ma la ragione per cui oggi abbiamo deciso di tornare su questo argomento, che è un pochino la mia fissa, ed è una fissa perché, ripeto, mi sembra che la politica italiana non abbia ben chiaro in questo momento di instabilità, primo, quale sia il livello della spesa pubblica reale nel nostro paese, secondo, quale sia il livello della pressione fiscale che grava sulle imprese e sul lavoro, terzo, che il debito pubblico continua ad avanzare, ogni secondo aumenta di 2.300 euro, guardate il contatore del debito pubblico che c'è sul sito del mio Chicago blog, e ditemi voi se i politici vi sembrano avere attenzione a quella cifra. Poi in realtà avevamo deciso di tornare su questo argomento perché? Perché dopo la trasmissione di 2 giorni fa siamo stati raggiunti da una raffica di comunicazioni, di esposti, di lettere, di segnalazioni di nostri ascoltatori, che effettivamente ci hanno molto colpito, perché un conto è naturalmente che sia io a fare cifre comparate, a commentare le sentenze della Cassazione che respingono l'abuso del diritto dello Stato contro il contribuente e invece lo affermano solo del contribuente contro lo Stato, che continuano ad affermare, come abbiamo visto 2 giorni fa, l'inversione dell'onere della prova esclusivamente a carico del contribuente, per esempio sugli studi di settore. Altro conto è invece parlare in termini reali e concreti della storia di imprese costrette a chiudere perché non ce la fanno a fronteggiare quello che lo Stato chiede, o costrette ad avere meno dipendenti e a ridurre le piante organiche per la stessa ragione. E allora, dopo questa raffica di comunicazioni che ci sono arrivate, obiettivamente abbiamo deciso di fare questa trasmissione. Poi ieri un'altra notizia, che in realtà è la cronaca da cui partiamo, oltre a questo 167esimo posto, voglio dire, nel report internazionale su cui torneremo tra poco, perché la notizia qual era? L'avete trovata sui giornali di ieri, era la notizia di una cittadina italiana, che però ha un nome famoso, ma è una cittadina italiana, Ornella Muti, che in Cassazione ha visto finalmente ripristinato la sua versione dei fatti di fronte all'Agenzia delle Entrate, che gli contestava oltre 1 milione di euro di tasse indietro che voleva da Ornella Muti, contestando, come spesso avviene da parte dell'Agenzia delle Entrate in una strategia a chiappa consensi, per cui si mettono nel mirino italiani famosi, possono essere, come in questo caso, artisti, attori, attrici, possono essere grandi sportivi, possono essere cantanti lirici, insomma l'Agenzia delle Entrate ci ha abituato da qualche anno a questa parte per gettare un po' di polvere negli occhi degli italiani a reddito dipendente, che naturalmente guadagnano molto poco, per additargli il grande evasore, la persona famosa che magari guadagna pacchi di quattrina senza troppo sudore, eccetera eccetera. Gli si contestano illeciti fiscali e in questo caso una residenza all'estero a Monte Carlo per non pagare imposte dirette e IVA nel nostro paese, gli si spara una grande cifra addosso. Naturalmente il grande nome, lo sportivo che se va avanti in contenzioso perde gli sponsor, il grande artista che a quel punto si vede negato le scritture, come ovvio di solito dal suo commercialista e dai suoi avvocati, ottiene un parere a trattare, l'Agenzia delle Entrate a quel punto strappa dal grande nome il fatto che nella trattativa, come è avvenuto per Valentino Rossi, significa una ammissione implicita di colpa, ed ecco che il consenso si ottiene. E invece Ornella Muti ha avuto degli avvocati che, forti del fatto loro, hanno detto: no, cara Ornella, qui noi andiamo in contenzioso e andiamo in primo grado, in secondo grado, fino alla Cassazione. E la Cassazione ha dato ragione a Ornella Muti, che quindi è pienamente riabilitata, e aveva torto l'Agenzia delle Entrate. E allora noi cominciamo da questa vicenda particolare, perché ovviamente il grande nome tanto rappresenta qualcosa che fa l'acquolina in bocca allo Stato per avere consenso, tanto però, quando riesce a ottenere ragione, dà ragione alla mia tesi, secondo cui questo fa parte di una strategia di consenso, cari ascoltatori, che lo Stato intelligentemente centellina per farvi cristonare e pensare che eccoci qua, finalmente qualche famoso che non paga le tasse viene acchiappato. Sta di fatto che poi, quando gli si contestano cose false, cade il castello di carte. E allora abbiamo con noi innanzitutto Cataldo D'Andrea, che è un avvocato tributarista che ha difeso, vincendo appunto Ornella Muti, da una casa dell'Agenzia delle Entrate. Intanto lo saluto, lo ringrazio e gli chiedo com'è andata. E poi, singolarmente, com'è che questa volta voi avete al vostro assistito detto: guarda, ti conviene rischiare, ma siamo certi del nostro, visto che tante volte colleghi in altri casi analoghi, non bisogna mai naturalmente fare di tutta erba un fascio, preferiscono dire al proprio cliente famoso: guarda, ci si espone troppo, meglio trattare con lo Stato, anche se magari abbiamo ragione noi. Buongiorno, grazie della domanda e rispondo immediatamente. La domanda che ci facemmo subito è questo un caso in cui le tasse non sono state pagate nel nostro paese, o è un caso specifico in cui per ragioni personali, professionali, familiari, la signora Rivelli, in arte Ornella Muti, aveva pieno diritto di avere la residenza a Monte Carlo. E noi abbiamo spostato l'attenzione su questo secondo aspetto, perché in realtà i fatti così sono andati e la Cassazione lo ha dimostrato, ma devo dire il giudizio derivava già da una sentenza di secondo grado, sempre a favore della contribuente. A parte aspetti oggettivi che hanno dimostrato l'assoluto svolgimento della propria vita e attività all'estero degli anni interessati, ma la cosa che poi ha, secondo me, spostato a favore del contribuente l'attenzione, per questo la particolarità della signora Muti è probabilmente diversa dagli altri casi, è che per tutte le attività professionali svolte nel nostro paese o nei paesi membri dell'Unione Europea come la Francia, la Germania, non essendo Monte Carlo dotato di convenzioni per evitare la doppia imposizione, ogni reddito veniva assoggettato nel paese dove veniva svolta l'attività una ritenuta pari al 30% sul lordo del pagamento, il che significa che in tutte le attività che ha svolto in questi paesi la signora Muti scontava un 30% lordo di imposte, che andando a fare un calcolo probabilmente risultava superiore a quello che avrebbe pagato come residente, perché sappiamo tutti che come residente avrebbe avuto diritto alla detrazione di costi. Quindi sostanzialmente in questo caso si è visto che anche l'erario italiano, per quello che spettava in termini di prestazione di servizi nel nostro paese, ha avuto il giusto pagamento delle imposte, ed è questo che ha, come dire, secondo me spostato il peso sulle ragioni della contribuente, quindi ci ha spinto a proseguire sul contenzioso. Obiettivamente le sembra che la mia tesi, di fronte alla temerarietà, uso un termine tecnico, sulla quale spesso mi sembrano fondate contestazioni analoghe nei confronti di grandi nomi, le sembra tecnicamente, non si faccia impressionare dal fatto che ospite, lei è un tecnico, sì, assiste clienti, sì, le sembra di riscontrare questo elemento di temerarietà a volte nelle richieste dello Stato oppure no? Beh, indubbiamente negli ultimi 3-4 anni l'asse si è spostato sicuramente più a favore dell'erario, e questo per una serie di ragioni, sia perché l'erario è dotato di strumenti molto più incisivi, spesso devo dire senza nemmeno la tutela di un controllo di un giudice. Dall'altro non si può negare che la posizione della giurisprudenza, soprattutto della Cassazione ultimamente, abbia spostato anche molto il peso sugli interessi dell'erario. Ecco, lei citava la giurisprudenza. Noi abbiamo fior di sentenze della Cassazione, l'abbiamo commentato 2 giorni fa, in cui dicono addirittura che l'imprenditore deve scegliersi, nell'incertezza della fattispecie che si applica un cespite, deve scegliersi lui la norma con l'aliquota più elevata, perché sarebbe un dovere costituzionale pagare il più possibile. Sentenze di Cassazione di questo tipo qua. Cioè. Diciamo che è stato più questo, diciamo, che ha creato un po' di disagio, perché tutto questo lei può immaginare, al di là del essere pro erario o no, che insomma sono più termini calcistici, esatto, indubbiamente creano incertezza. Ecco, perché qui stiamo parlando di diritti, quando non si può star sicuri di quale norma applicarsi, esatto. Significa vivere da schiavi, non da cittadini. Beh, insomma, lei sa che è un concetto di abuso di diritto, esatto. Se non viene definito in modo chiaro, crea incertezza agli operatori economici che vogliono semplicemente fare il loro lavoro, insomma. Io la ringrazio molto e andiamo a questo punto, a questo bel report della Banca Mondiale con PricewaterhouseCoopers, che su 183 paesi al mondo dice che noi siamo al 168esimo posto, perché la pressione fiscale complessiva, e quindi mettendoci anche i contributi sul profitto lordo delle imprese italiane in media, è il 68,6% dei profitti commerciali, il 68,6%. La media europea rispetto alla quale quindi le imprese italiane devono tentare di concorrere, rispetto al nostro 68,6% che è la richiesta di questo Stato esoso e rapinatore, la media europea è del 44,2%, quindi rendetevi conto che c'è una differenza di 24,4%. Cioè 24 punti e mezzo in più in Italia rispetto alla media europea. La media mondiale è del 47,8, quindi 20 punti comunque in meno che da noi. Per essere chiari, nel Regno Unito la pressione sul profitto commerciale delle imprese è del 37,3%, il 37,3% rispetto al 68,6% che si becca il nostro Stato, sono 31 punti in meno. Allora, è possibile mai che gli imprenditori italiani debbano tentare di restare aperti, di dare lavoro, di concorrere, di acchiappare la ripresa sui mercati, di tentare di star dietro al nostro mercato interno in cui la domanda interna è asfittica perché c'è poco reddito disponibile da molti anni, lo sappiamo, da quando siamo entrati nell'euro ancor meno per i dipendenti a bassa qualifica del settore privato, avendo sul groppone la bellezza di 24 punti da pagare in più rispetto alla media dei concorrenti europei, 30 punti in più da pagare rispetto a quelli del Regno Unito. È possibile mai arrivare in una situazione di questo tipo senza che sia l'emergenza nazionale della politica, visto che ci sono tra 6 settimane, scade la moratoria bancaria, ci sono 200.000 imprese che potrebbero trovarsi dalla fine della moratoria all'inizio della moria. È possibile che in Italia qualcuno riesca a capire che riuscire a tenere aperta un'impresa in queste condizioni è come essere un eroe? Ecco, io lo dico provocatoriamente perché, ripeto, di anno in anno in classifiche come queste l'Italia scende sempre più in giù. Non c'è verso di trovare un qualche segno di minor pressione fiscale a fronte di riduzione della spesa pubblica, perché, lo ripeto, sono di quelli che non vogliono gli sfondamenti del debito, noi non ce li possiamo permettere. Detto questo, però, vivere in questa condizione di oppressione fiscale, secondo me, dovrebbe aprire un po' gli occhi a tutti. Ieri abbiamo fatto un dibattito col presidente di Confindustria, il segretario CGIL, CISL e UIL, e la convergenza delle tre confederazioni insieme a Confindustria e insieme a tutte le associazioni datoriali e del credito che sono presenti al tavolo dell'agenda sociale per la crescita mi è sembrata positiva, perché c'è anche il fisco di mezzo, e questa volta l'idea convergente è che impresa e lavoro devono trovare una qualunque cavolo di parte politica, questa, la prossima, non lo so, purché ci sia un governo dall'altra parte del tavolo che capisca i problemi del paese, che deve deliberatamente porre un grande sgravio fiscale, un grande taglio dei termini reali della spesa pubblica, perché lavoro e impresa così vanno a picco, non c'è alternativa, vanno a picco. Su questo ci aveva scritto, dopo la trasmissione di 2 giorni fa, un consulente di direzione organizzazione certificato d'impresa, Roberto Dini, che mi aveva mandato una mail che mi aveva molto colpito, dicendo: come si può pensare, scriveva, che un'impresa media e medio piccola possa sostenere una pressione fiscale pari in queste proporzioni quando si consideri che il punto medio di pareggio economico si aggira tra settembre e ottobre rispetto all'attività che questa impresa compie tutto l'anno, che si ignora totalmente un concetto basilare di economia aziendale, cioè il rischio d'impresa, che il punto di pareggio finanziario addirittura supera l'esercizio economico, che il tasso di rendimento operativo netto si aggira intorno al 15%, pari al netto 7,5% dopo le imposte. Ecco, tutte queste domande mi hanno colpito per la passione con cui erano scritte, lo abbiamo qui in trasmissione per darci una sua testimonianza, per dirci, nelle imprese che assiste, come ci si può sobbarcare a questo svantaggio competitivo di decine e decine di punti rispetto ai nostri concorrenti. Si chiama Roberto Dini e opera a Spilamberto. Buongiorno Dini. Buongiorno a lei, dottor Giannino. Allora, ospiti. Che mi dice? Come stiamo messi? Come stanno i suoi assistiti in questi 2 anni di crisi di fronte alle richieste dello Stato? Malissimo. Malissimo perché la nuova, dobbiamo fare una premessa, che oggi mediamente il sistema manifatturiero, quindi io poi parlo dall'Emilia Romagna, è caratterizzato dalla volontà di dover assistere un nuovo mercato, vale a dire essere in grado di competere con le nuove frontiere, che implica, ha implicato già da diversi anni, investimenti in particolar modo nel settore della metalmeccanica di notevole rilievo. Ora, a fronte di una realtà dove l'impresa media nasce mediamente in linea di massima sottocapitalizzata e quindi già parte con un deficit di circolante netto, parlo di finanza corrente, si trova a un certo punto a un blocco della domanda, quindi con investimenti in corso e con una pressione fiscale che non accenna a diminuire. Questa è la realtà dei fatti. Si guarda, ho guardato intorno in tutti questi anni e ho visto che mediamente le piccole imprese non realizzano più o meno del 17-18% di un reddito aziendale, cioè quello che veramente conta. Dopodiché abbiamo una pressione che a periodi ha oscillato anche oltre il 50% e quindi oggi la gente si trova di fronte a dover fare una scelta o desistere, quindi chiudere l'impresa, e cosa che vedo che purtroppo sta accadendo, e con un grave danno di professionalità, perché in particolar modo in Emilia c'è un grande patrimonio di cultura aziendale e settore in particolar modo della meccanica, e quindi la perdiamo. Secondo, abbiamo queste nuove generazioni che si trovano un debito sulle spalle, perché il fisco ovviamente non guarda assolutamente il rischio di impresa. E oltretutto il fisco, quando tu chiedi il dilazionamento, lo ottieni eccetera, ti grava di un'altra sberla del 40%. Dopodiché abbiamo un altro fenomeno. Abbiamo che dal momento in cui purtroppo il contribuente si trova a dover sospendere l'imposta per riprenderla successivamente attraverso una richiesta di dilazionamento, a quel punto scatta la pressione ulteriore di oneri aggiuntivi che sostanzialmente incidono intorno al 36-37%, quasi 40%. Quindi il debito diventa irraggiungibile, non è più pagabile e quindi iniziano i pignoramenti. Questa è la realtà, meno in Emilia. Sto parlando di un'area estremamente felice, perché se parlassimo di altre aree sicuramente saremmo in deficit. Io ho ricavato anche una tabella statistica della Camera di Commercio dell'Emilia Romagna, dove già all'epoca, sto parlando del 2001, quindi in tempi non sospetti, si vede già dall'inizio che comunque il tasso di rendimento non è maggiore del 15%. Quindi fin da allora noi abbiamo una realtà economica che è incapace di sostenere una pressione fiscale e gli investimenti che necessitano per rimanere sul mercato. Eppure mi pare che questa consapevolezza non ci sia. Ora andiamo in pubblicità, poi torniamo con Giuseppe Bortolussi, che i nostri ascoltatori ricordano bene, conoscono bene, e oltre all'Emilia manifatturiera colpita, come avete visto, da tasse che non riesce più a pagare nella difficoltà perdurante di questa crisi, un occhio dal nord-est, non solo per le inondazioni di cui ci siamo occupate e continuate a sostenere anche con il ritmo degli SMS la richiesta e la raccolta di sostegno finanziario ancora per chi è stato colpito da quello, ma perché il nord-est è uno dei cuori della produzione della manifattura italiana. Tra poco. Eccoci tornati in studio, un ascoltatore mi manda immediatamente un SMS e mi dice: non ho capito, ma non hai citato la Germania, in Germania come stanno messi a pressione fiscale? Allora, secondo questo report della Banca Mondiale, secondo il quale siamo 167esimi su 182 paesi, rispetto al totale della pressione fiscale, quindi imposte e contributi, tax rate reali, non le aliquote medie, IRES, eccetera, quello che si paga davvero sommando il tutto, ricordo a tutti che il fisco italiano funziona in maniera regressiva sulle imprese, totalmente violato l'articolo 53 della Costituzione. In altre parole, più la vostra impresa è piccola, come nel 99% dei casi, cioè meno siete finanziarizzati, meno esteso il vostro perimetro, se non avete una catena di controllo che si perde in qualche controllata estera, in parole povere, meno potete andare attraverso cessioni di mobili o immobili che avete nei diversi libri delle vostre società controllate in minusvalenza, cioè in credito fiscale, come ovvio più pagate rispetto ai grandi gruppi. Questo è il motivo per cui il nostro fisco è inaccettabilmente regressivo rispetto alla funzione della nostra, alle caratteristiche reali della nostra impresa. Questo è il motivo per cui in Italia la somma delle imposte reali in media sulle società italiane e dei contributi che si pagano è pari a 68,6 punti dell'utile commerciale, dice la Banca Mondiale. In Germania, visto come lo chiedete, il conto è esattamente di 20,4 punti meno, il 48,2%, e poiché noi siamo il secondo paese manifatturiero che deve tentare di esportare subito dopo i tedeschi, perché abbiamo una specializzazione analoga in molte tipologie di manifattura meccanica, macchine per l'automazione meccanica e così via, voi capite che partire con più di 20 punti di svantaggio fiscale è come avere il piombo. Ecco perché una delle lettere che mi è arrivata due giorni fa ve la voglio leggere. Sono costretto a saltare alcuni particolari che, per così dire, individuano meglio questa nostra ascoltatrice, perché non la vorrei mettere in difficoltà. E che cosa c'è scritto? Dicevo, ho ascoltato con apprensione la trasmissione dedicata a fisco e aggravi amministrativi, perché anch'io, oberata dai troppi obblighi di legge che giornalmente mi fanno rischiare denunce molte assurde dalle troppe tasse e da una concorrenza spietata, per evitare di fallire dopo 10 anni mi vedrò costretta a chiudere il 2 gennaio. Sto per mettere sulla strada, non vi dico quante persone, perché non lo sanno ancora e quindi non vorrei che lo apprendessero di qua, con le rispettive famiglie nel periodo peggiore dell'anno, il Natale, e ancora non so come dirglielo. Due dei miei dipendenti, anche qui non vi dico che problemi hanno i loro figli e i loro familiari, perché sennò il rischio è che se ci ascoltano capiscono. E continua questa nostra ascoltatrice dicendo: mi si stringe il cuore al pensiero di dover licenziare. Io ho fatto di tutto in quest'ultimo anno e mezzo, ma non sono riuscito a farcela così, per salvare il salvabile, cioè la possibilità di aprire un'altra attività più piccola che non necessita di personale e quindi avrà meno aggravi fiscali e amministrativi. Io dovrò chiudere i battenti. Come mi sento? Mi sento una schifezza, soprattutto verso queste persone che non posso più tenere e che di questi tempi non si sa che fine faranno. Ma continuare significherebbe comunque non avere più prospettiva, né io né loro. E a questo punto bisogna scegliere la fine. Fallendo mi precluderei la possibilità di fare qualunque altra attività economica nel nostro paese. Mi pento solo di aver creduto a chi diceva che l'Italia cambiava qualche anno fa, e da Londra di essere tornata qui. A Londra avevo due attività ben avviate, invece non è cambiato niente e le cose vanno di male in peggio. Questa è una nostra ascoltatrice. Di fronte a confessioni di questo tipo, cioè al dolore, alla sofferenza che per piccoli imprenditori significa dover prendere atto che non c'è partita in Italia e bisogna buttare la gente sul lastrico e bisogna piangere per loro perché non si sa come dirglielo, e bisogna tentare di fare questo prima che poi col fallimento, voi lo sapete, nel nostro caso il nostro ordinamento non ha il fallimento come prospettiva ordinaria nella vita di un imprenditore, come avviene in altri paesi più civili. Da noi c'è l'onta, il metus morale, c'è il fatto che se sei protestato non puoi praticamente più compiere alcun negozio giuridico e atto di pagamento, quindi devi chiudere. Per quante migliaia e migliaia e migliaia di imprese dovrà capitare prima che qualche politico capisca che non è vero che è bello pagare tutte queste tasse, che non è giusto pagarle? Quanto più piccola l'impresa si è, tanto più pesanti quando le banche pagano 30 punti di meno, che a questo bisogna sommare, come è giusto a quel punto, le cifre dell'assistenza di commercialisti, avvocati, se vuoi andare in contenzioso e rischiare la testa di fronte all'Agenzia delle Entrate, che oramai ti insegue con i forconi e ti addita al disprezzo pubblico. Perché vivere in questo paese e dare lavoro deve essere una cosa così schifosa da pensare che ogni giorno che viene sulla terra paghi solo una roba che ti impedisce di occupare di più e meglio la gente? Sentiamo alcune telefonate. Abbiamo una telefonata dalla provincia di Viterbo che mi incuriosisce molto, perché se pronuncio bene il nome è Ushang, però può essere che lo pronuncio male, nel qual caso mi scuso con il nostro ascoltatore. Prego. Sì, pronto, buongiorno a lei e radioascoltatori. Ha pronunciato perfettamente il mio nome, Ushang. Io sono un professionista, piccolo imprenditore edile, Dunque, volevo naturalmente confermando tutto quello che lei sta dicendo pienamente, sono d'accordo. Purtroppo ci sono anche molte imposte indirette che non... io mi piacerebbe che una volta lei magari facesse una puntata tipo sul cassa edile. Cioè ogni imprenditore edile per un operaio all'incirca spende da circa 4 o 5 mila euro all'anno per pagare cassa edile. Di questi soldi neanche la metà entrano nelle tasche di operai. Allora, per quale ragione non si può pagare questo tredicesima, le ferie direttamente datore di lavoro, bypassando, risparmiando circa 2.000 euro all'anno per ogni operaio? E poi, io avendo una società SRL, e soltanto dico che quest'anno, per diversi motivi, passaggi che dovevamo fare delle quote oppure cambiare diciamo nello statuto, ogni volta abbiamo dovuto andare davanti al notaio e spendendo più di 1.500-1.600, io soltanto ho speso quest'anno 7-8 mila euro per notaio, cosa che potevamo direttamente andare a comunicare a Camera di Commercio, quindi ci sono tantissimi oneri aggiuntivi che per dirette, la stupidaggine delle nostre norme amministrative sono a carico degli imprenditori. Di che nazionalità è, posso chiedere? Io sono di origine iraniano e vivo in Italia da 40 anni. Sono arrivato quando avevo 19 anni, ho fatto i miei studi di architettura a Roma. Certo. E che dire, io ringrazio lei e quelli tanti come lei che tentano ogni giorno di farcela, malgrado delle norme che oltre a ragione ad avercelo ricordato, oltre agli oneri fiscali e contributivi, ci sono poi anche le follie amministrative. Diego da Milano, prego, qual è la sua esperienza? Oscar, buongiorno. Buongiorno. Le do un'idea, perché sono un telegrafico, lei ha sempre i tempi molto raccorciati. Lei deve andare, non deve dire posso, deve andare da Fazio e Staviano e leggere un manifesto come altri vanno a leggere altre cose, citando tutti questi punti, perché è l'unico modo per far sì che i politici capiscano, perché nessuno ce l'ha in agenda quello che lei dice, e io la seguo ogni giorno, nessuno. Diego, però... Temo che la sensibilità, io ho grande stima di chi si è inventato e riesce perché è seguito ad avere quella cassa di risonanza, io temo che di chiedere meno spesa pubblica e meno tasse per dare lavoro e crescere di più nel nostro paese, per quanto siano i milioni a subirne il gioco, a dirlo in pubblico è una battaglia minoritarissima, perché l'influenza culturale dominante è quella di dire che chi solleva argomenti come il mio è perché è un darwinista schifoso, è uno che pensa solo a mettere i soldi nella tasca degli imprenditori e non pensa per niente invece a mettere più retribuzione reale meno tassata nelle tasche dei dipendenti e più utile per le imprese, che significa consentire loro di investire e di crescere, perché senza utili non si investe e non si cresce, questo è il punto, non si dà più lavoro, non si consente al nostro paese di stare sui mercati internazionali. Io penso che bisognerebbe un'impopolarità simile, che qualche politico la mettesse come punto numero uno della propria agenda, e penso anche che gran parte dell'elettorato del PDL, invece che star dietro le seghe, le cazzate personali di questo o di quello, veramente potrebbe adottarlo come una piattaforma concreta, purché poi vedesse dei fatti e non solo delle promesse che ogni volta trovano una giustificazione in questa o quella crisi per non essere tradotte in realtà. Questa è la mia modestissima aspettativa, ma è un'aspettativa di contribuente, non è un'aspettativa di uno. Io non faccio il politico. Matteo da Bergamo, qual è la sua esperienza? Sì, grazie. No, la mia esperienza è un'osservazione. Io osservo una guerra tra poveri, quella tra lo Stato e i cittadini. È colpa dello Stato, è colpa dei cittadini. Ci si perde, non si affronta il problema vero. Il problema vero è semplicissimo. È un problema legato alla natura della moneta. Sono le banche che creano il denaro e se ne impossessano al momento dell'emissione. Questo genera debito pubblico, il debito pubblico genera tasse, gli stati sono impotenti, non hanno più la proprietà della moneta, non è Matteo, la Matteo, la... Matteo, ti interrompo, conosco la tesi, no. Guarda, che il debito pubblico sia creato attraverso la creazione di moneta dalle banche centrali e anzi dalle banche private che ne sono azioniste controllate, questa è una tesi eccessiva e che non condivido. Il debito pubblico lo fa la spesa pubblica. La spesa pubblica la decidono i politici pro tempore. nel nostro paese è 52,5 la spesa pubblica, e se levi 4 punti rotti di interessi tutto il resto è per lo più spesa corrente, perché di spesa per investimenti è tagliata all'osso. Quindi il problema è lo Stato. Non è vero che la politica è debole e impotente perché non c'ha i soldi. Non c'ha i soldi perché da qualche anno a questa parte ci sono ministri che contengono il deficit pro tempore, e per fortuna con la crisi dell'eurodebito che c'è. Ma con il debito pubblico accumulato che abbiamo sulle spalle, con una crescita che è meno dell'1%, quel debito riprende a correre e noi ci finiremo dritti nel girone della crisi dell'eurodebito. Il problema è che per crescere di più bisogna tagliare spesa corrente, riallocarla, e bisogna levare le imposte a chi crea il reddito, che sono le imprese e il lavoro dipendente. Allora, su questo cedo adesso praticamente fino alla fine della trasmissione il microfono a Paolo Giuseppe Bortolussi, a cui ho fatto perdere il tempo fino a questo momento senza mai dargli la parola, ma adesso abbiamo l'informazione stradale e quindi poi tutto il resto, tutto fino alla fine della trasmissione, lo faremo con Bortolussi. Eccoci tornati in studio, Giuseppe Bortolussi, dacci qualche speranza, perché a questo punto io vengo un po' accusato da alcuni sms di ascoltatori che dicono questa è propaganda politica. Io non faccio propaganda politica, io temo che molti continuino a non vedere la realtà dell'impresa italiana, degli artigiani, dei commercianti, delle micro aziende individuali o di chi ha 2-3 dipendenti, che poi sono la spina dorsale di questo paese. La situazione che vedi tu, Bortolussi, qual è? Io vedo che la situazione rimane molto difficile, ma qualcosa si può fare. Scusami se ti do del tu, lo stai facendo tu, da molti anni lo sto facendo io, con quali risultati? Beh, te ne dico una, vedi, la consonanza tra me e te, pur essendo io di centro-sinistra e tu quello che sei, mi spiego? Nel sì, senso buono. Una specie di animale strano, ma sono d'accordo. Ecco, vabbè, ma siamo tutti e due i cocervi, tutti e due un po'. Vedi, in prima pagina del Quotidiano Nazionale c'è un commento mio che dice, il titolo è questo, un'impresa da eroi. Sai che cosa commenta? Commenta i dati che tu hai usato oggi, mi spiego? Della Banca Mondiale e della PricewaterhouseCoopers. Questo commenta, è un'impresa da eroi oggi creare ricchezza in questo paese, perché tutti, chissà per quale ragione, le loro ascendenze cattoliche, le loro ascendenze comuniste, marxiste, non lo so, fatto sta che creare ricchezza, invece che essere una cosa giusta, una cosa bella, e aiutare chi la fa, avere la cultura di dargli una mano, di creare i presupposti perché possa continuare, si fa esattamente il contrario. Perché quando noi citiamo le tasse, citiamo un argomento. Adesso cercherò di spiegare il discorso del gioco di prestigio, dell'illusionismo che c'è in Italia. Si indica il grande attore e si dice che quello è l'evasore, perché ormai con l'idraulico non attacca più, perché l'idraulico, ormai ci sono gli studi di settore, per quanto poverino sia Rabatti e per quanto riesca ne paga sempre troppe di tasse, come dici sempre tu e dico sempre anch'io. E allora l'illusione è questa, spostare l'attenzione, mi spiego, dalla luna al dito, il contrario di quello che si dice. Sai qual è la luna? La luna è la considerazione di che cosa succede veramente. E sai cosa succede? Succede quella cosa che ho già raccontato, ma che tu mi permetterai di dire ancora, perché fa capire ai telespettatori come stanno le cose. C'è un condominio Italia e un condominio Germania. Tu vai nel condominio Italia e vedi che i vetri sono rotti, la luce non funziona ed è sporco. Parli con l'amministratore, il gestore, e gli dici, ma come mai sta cosa? Guardi, non è colpa mia, perché quello al quinto piano non paga le spese condominiali. Ma quant'è che si paga qua? 30. Vai al condominio Germania, che è lì a fianco, e parli col gestore, intanto noti che è pulito, i vetri non sono rotti, la luce funziona, e questo gestore ti dice che le spese condominiali sono 24 e non 30. Al che tu capisci subito, perché vedi, le tasse in Germania sono il 24% sul PIL, parlo di pressione tributaria, certo, non fiscale, in Italia invece il 30, quasi 6 punti di differenza. E allora la colpa è di quello del quinto piano, certamente, che non paga, ma ciò nonostante questo gestore con 6 euro in più, diciamo 6 punti in più, che è pari a circa il 20% in più, dato che corrisponde a quello che davi tu, questo non riesce ad amministrare bene, cioè noi paghiamo di più per avere di meno, ed è questo che gli italiani devono capire. L'illusionismo è questo, fanno credere che sia un problema di evasione, che non funzionino le cose perché manca la benzina, i vigili del fuoco, no, perché di soldi, mi spiego, questo gestore, questo Stato ne ha più degli altri paesi europei, è questo che deve capire la gente. Ma però chi fa impresa in questa realtà non ha solo un 20, 30, 40 punti di tasse in più, come dicevi prima tu, ha anche 35-40% di più di costo dell'energia, ha un 15% di più del costo dei trasporti. Quando poi vuole giustizia, sai qual è il bello? Che la giustizia funziona perché non funziona, le poste funzionano perché non funzionano, tu non ricorri più alle poste perché sai che tanto la roba non arriva, e allora vai dal privato e ti fai spedire da uno spedizioniere, da un coso. Tu non vai più dall'ospedale pubblico per il quale hai pagato tasse più salate del resto d'Europa, no, tu vai dal medico privato perché la coda è troppo lunga, e quindi quel po' di pubblico che c'è, anzi quel tanto di pubblico, funziona perché non funziona, perché uno non ci ricorre più. Questa è la situazione del nostro paese. I cittadini dovrebbero riflettere su queste cose, riflettere, perché il dato più bello non è tanto quello della Banca Mondiale e della PricewaterhouseCoopers, è quello degli IDE, gli investimenti diretti estero, perché questo è un dato di fatto. Perché gli stranieri non vengono ad investire da noi? Perché siamo agli ultimi posti insieme alla Grecia e al Portogallo? Perché un imprenditore straniero, quando pensa di venire in Italia, pensa che paga più tasse, pensa che paga di più l'energia, pensa che paga di più i trasporti e che se ha bisogno di giustizia non gli conviene, perché ci vogliono dai 7 agli 11 anni per avere giustizia civile, tanto che io dico, lasciamo perdere quella penale che è importantissima, ma facciamo la riforma di quella civile per cortesia, perché anche lì funziona quel poco che funziona, perché la gente ricorre ai lodi privati, perché non può aspettare 7-11 anni per avere giustizia, per sapere se deve pagare o no. E quindi la questione delle tasse e dell'evasione diventa quasi un alibi per nascondere tutto questo, perché il gestore continua a fare quello che ha fatto, cioè a produrre inefficienza, a far pagare a questo paese, e se poi si parla tanto di competitività, ma scusate, con una palla al piede di questo genere, parlo di energia, parlo di tasse, ma come fa un'impresa italiana a essere competitiva? Ma dico, per questo parlo di impresa da eroi, anzi dico, questi sono degli eroi, perché negli ultimi mesi l'export italiano, nonostante queste difficoltà, nonostante l'andamento dell'euro sul dollaro eccetera, hanno un più 8% di export. Quindi io dico eroi, e gli italiani dovrebbero capire che la ricchezza viene da qua, non da altro. Tanto è vero che l'Europa, cosa ha fatto l'Europa? Ha fatto uno Small Business Act, dove parla di cultura per favorire la piccola impresa, perché è la piccola impresa che crea occupazione. L'80% dei nuovi posti di lavoro ogni anno, l'80% è creato da aziende che hanno meno di 10 addetti. E quindi se non le favoriamo, poi non possiamo lamentarci contemporaneamente del fatto che c'è tanta disoccupazione. Ora ti interrompo perché il tempo è finito. Io dico a chi è in ascolto, dico a le centinaia di migliaia, perché iniziamo ad avere ascoltatori 300.000 rotti eccetera. Bravissimo. Che sono eroi, per tutti quelli che rischiano tirando su la serranda ogni giorno, tutti quelli che non hanno la garanzia pubblica, tutti quelli che addirittura vengono chiusi dagli ordini, è capitato, ce ne siamo occupati, perché gli ordini dicono volete tenere troppo aperto, chiudete. Io dico che a tutti loro queste parole sacrosante dei Bortolussi, che per conto mio ve l'ho detto sempre, io lo farei ministro domani, perché gente che ha questa esperienza bisogna che pigli in mano le cose, a voi eroi, non dite siamo rassegnati, non pensate che non c'è alternativa, non accettate di votare politici di qua, di là, di sopra, di sotto, non mi interessa come la pensate, che su queste robe non vi diano delle risposte concrete, che dicano in quanti mesi tagliano, che cosa riallocando, altrimenti la vostra serranda, il vostro rischio, ciò che garantite ai vostri dipendenti, il futuro dei loro figli, oltre che dei vostri innanzitutto, sarà sempre più a rischio in questo paese, non perché governa male la destra, governa male la sinistra, ma perché siamo rassegnati a un'idea di organizzazione dello Stato, della collettività, di ciò che ci unisce davvero, che è un'idea sbagliata perché ci priva del presente e del futuro. Perché dovete rassegnarvi? Ditemelo, c'è una buona ragione per rassegnarsi? Che ve ne frega se viene prima con chi scopa la notte questo o quello? Quello che vi devono dare per prima cosa è la fierezza del presente e del futuro. Si chiama lavoro, si chiama impresa, si chiama battersi per avere cose migliori pagando il giusto. Oltre la frontiera per tutti gli altri è possibile. La domanda che vi faccio è: perché da noi no? Un Bortolussi qualunque sarebbe capace di farlo, dico qualunque perché ne ho grande stima, eppure lo hanno utilizzato solo per prendere qualche voto perché sapevano che perdevano le elezioni, la sua parte in Veneto. Io li vorrei candidati per vincere, dicendo per un anno mani libere, facci vedere. Saprebbero farvi vedere. Scegliete gente così, questo è il mio appello, quando sarà il momento, perché gente così in Italia ce n'è. Pensateci, eroi in ascolto. Ci sentiamo lunedì, grazie a tutti quelli a cui questa puntata di follia è andata in onda, ma noi ci siamo su Radio 24 anche per questa follia, quella degli eroi che rischiano tirando su la serranda. A lunedì.